Victoria. Le tende spesse impedivano alla luce di entrare. I mobili della suite si intravedevano solo come ombre scure. Al, era così che si chiamava l'americano alto, era sdraiato accanto a lei e respirava pesantemente ma senza russare. I capelli, che la sera prima erano ben pettinati, ora erano tutti in disordine. Victoria guardò l'ora sul cellulare. Erano le 9:15, non potevano aver dormito più di 3 o 4 ore. Alan De Pietro era un magnate del petrolio, ma aveva vissuto parecchi anni in Russia. Perciò, poco dopo essersi avvicinato al suo tavolo e averle chiesto se poteva farle compagnia, era passato al russo. Era cortese, affascinante e ben educato, e l'aveva trattata con gentilezza e rispetto. Dopo essere rimasti seduti al bar fino all'ora di chiusura, le aveva proposto di salire in camera sua. Victoria in un primo momento aveva detto di no, ma quando lui, invece di insistere, si era limitato a pagare il conto e augurarle la buonanotte, aveva cambiato idea. «Hai della vodka?» gli aveva chiesto ridacchiando. La suite era all'ultimo piano e consisteva in 3 stanze adiacenti. Un generoso balcone, con vista sul Palazzo Reale, correva lungo la parete maggiore. Era la camera più bella che Victoria avesse mai visto. Si sentiva quasi come Julia Roberts in Pretty Woman. Al le aveva lasciato ordinare tutto quello che voleva al servizio in camera. In 4:48 una vera e propria cena era stata servita in terrazza, su lucidi vassoi d'argento. Mentre Stoccolma dormiva, avevano mangiato e bevuto avvolti in calde coperte. Al aveva quasi 50 anni, il doppio di lei. Le aveva raccontato aneddoti sui baroni del petrolio texani e sugli oligarchi russi che Victoria aveva solo visto alla televisione. Su sua esplicita richiesta, si era impegnato a descriverle le loro case, il loro lusso sfrenato e i loro jet privati. Ma oltre a intrattenerla con episodi della sua lunga ed eccitante vita, l'aveva ascoltata, prendendo sul serio le sue opinioni e definendole interessanti. Più tardi, quando avevano iniziato a sentire freddo, Al aveva acceso la sauna. Si erano portati la bottiglia di champagne in bagno, ma nella sauna non erano nemmeno entrati. Avevano fatto l'amore sotto la doccia e poi si erano asciugati in fretta prima di continuare a letto. Victoria scalciò via la coperta, andò alla finestra e socchiuse le tende. Una sottile striscia di luce tagliò in 2 la stanza. Sui comodini c'erano ancora bottiglie e bicchieri vuoti. Raccolse le sue cose sparse per la stanza, si vestì e uscì in punta di piedi. Peccato che non si sarebbero più rivisti. «Natasha?» Si fermò a metà di un passo. Non aveva usato il suo vero nome e aveva inventato una storia su un pernottamento gratis al Grand Hotel vinto in un concorso della catena di boutique per cui lavorava. Ma in quel momento se ne pentì, almeno del nome. «Volevo lasciarti dormire», disse. Al le fece segno di avvicinarsi. «Mentre russavi come un angioletto questa notte, ho pensato una cosa», disse con un sorriso. «Come ti raccontavo ieri sera, sono separato e passo il Natale ubriacandomi in qualche albergo dove il personale è pagato profumatamente per tenere compagnia ai poveracci come me. Quest'anno ho prenotato un pacchetto all inclusive a Barbados». Victoria aspettava paziente il seguito, sforzandosi di non lasciarsi andare a un largo sorriso. «Cosa ne dici di venire con me a Ginevra oggi stesso o più avanti in settimana e poi passare il Natale insieme? Stoccolma sarà pure bella, ma il tempo lascia un po' a desiderare», concluse Al con un gesto verso la finestra. «Non so. Avevo pensato di tornare in Russia, da mia madre». Al sorrise, ma Victoria vide che era deluso. «Capisco», disse accarezzandole una mano. «Peccato».